lontano dal mondo, da quel che sia. Non ho bisogno di obiettivi, lo faccio per me in primis, lo faccio solo per la vita mia. Se ci fosse un motivo sarei già andato via. Lontano dal mondo, da quel che sia. Non ho bisogno di obiettivi, lo faccio per me in primis, lo faccio solo per la vita mia. Se ci fosse un motivo sarei già andato via. Lontano dal mondo, da quel che sia. Non ho bisogno di obiettivi, lo faccio per me in primis, lo faccio solo per la vita mia. Se ci fosse un motivo sarei già andato via. Lontano dal mondo, da quel che sia. Non ho bisogno di obiettivi, lo faccio per me in primis, lo faccio solo per la vita mia. Mi domando cosa fai, dove vai e soprattutto se lo sai. Che il sapere in questo tempo è una luce che ci porta alla porta di questo nuovo firmamento. Lo svuotamento della vita altro non è che il prosciugamento di questa falsa riuscita. Una farsa che soffalsa su una ritmica invertita, dove i sorrisi sono rari come pioggia. Ci si appoggia al potere della loggia, se fratelli tra di loro sono saldi come roccia. Sulle ali della luce la pace la produce chi sente il peso di questa sua eterna croce, dando voce ad uno scorso del tempo che rallenta un andamento apparentemente feroce. Tutto così veloce, se la calma propina una proposta che ti nuoce. Qua la calma propina, la calma ci inclina, mina ogni proposta che arriva. Abbiamo corso, siamo senza saliva, questo rimorso ci placa ogni inventiva. Tentiamo, essendo umani, minando i nostri piani, cerchiamo mani da stringere. Ma se è un abbraccio che vogliamo, corre trovare per fare, dopo smettere di fingere. Qua la calma propina una proposta che ti nuoce, rendendo incolore anche il grigiore che ti lede, mutando la tua sede, incrinando un sentimento che porta ad annegare quella tua parte che chiede. Non esiste ragione per chi cerca soluzione all'interno della propria estensione. Come puoi rendere colorato qualcosa che è stato privato del suo senso lato? Non li puoi costringere, ma in ogni muro puoi trovare un luogo sul quale dipingere. E so imparato una cosa nella mia vita, è che chiusa una porta puoi trovare un portone, ma la porta di casa è solo una, soprattutto nel momento in cui quella porta aveva un nome. Viviamo di ricordi, viviamo di idee, perdiamo la forza col trasalir delle maree. Se dove la luna arriva trovi un mare che si alza, preparati alla navigazione ardua. E se la luna arriva trovi un mare che si alza, preparati.